Noi siamo l'unica categoria a livello nazionale che da 8 anni aspetta il rinnovo del contratto. Non percepiamo niente per questa assenza se non 20 euro al mese come indennità di vacanza contrattuale. È stata data la possibilità di accettare tra le varie proposte una indennità di 80 euro lordi che si aggiungerebbe. In realtà questo è soltanto lo specchietto per le allodole, quello da vendere al pubblico. Non ci stiamo lamentando soltanto perché ci offrono 80 euro in più al mese lordi, ma semplicemente perché stanno facendo in maniera sistematica e attraverso tanti anni di lavoro una distruzione programmata del servizio sanitario pubblico nazionale, perché svilendo il lavoro del medico si svilisce l'attività pubblica del servizio sanitario. Quindi il motivo fondamentalmente di protesta è questo, perché nel momento in cui trasferiscono l'orario di lavoro che adesso si sforza di essere rispettato per il rispetto di una normativa europea che nelle altre nazioni viene applicata, qui in Italia viene perennemente disattesa per questioni di sottorganico e perennemente scusata, nessuno paga le ammende e le multe per lo sforamento dell'orario di servizio. Nel momento in cui c'è il rinnovo del contratto, una delle proposte è quella di lavorare per programmi. Il programma prevede il conseguimento di un obiettivo, ma noi non siamo un'azienda, noi siamo dei professionisti al servizio della salute del cittadino, e quindi il programma può essere valido laddove comunque io sia anche lucido, perché non è che posso lavorare ad oltranza e avere lo stesso tipo di lucidità e lo stesso tipo di efficacia. Io devo poter operare su un paziente in maniera intelligente, lucida e pronta. Lucida e pronta, quindi non devo lavorare su un paziente dopo 50 ore di straordinario, dopo turni massacranti, dopo uno smonto notte, continuare a lavorare fino all'una del giorno dopo e pensare che io possa essere ancora lucida e che la mia prestazione sia la stessa di chi è montato in servizio alle 8 di mattina dopo aver dormito tranquillamente. In Emilia-Romagna qual è la situazione rispetto alla media nazionale? In Emilia-Romagna viene garantito un servizio sanitario nazionale molto efficace, tant'è vero che veniamo presi ad esempio, che potrebbe essere anche un faro nella nebbia, ma è grazie molto alle prestazioni di paravolontariato dei medici, perché comunque si sfora l'orario di servizio senza chiedere niente, anche perché noi siamo garantiti come prestazione straordinaria fino a un certo numero di ore. Al di sopra di 150 ore all'anno di straordinario nessuno viene più retribuito, per cui nel momento in cui le superiamo, e molti di noi le superano per molti anni di seguito, non viene più pagato lo straordinario, il medico continua a lavorare praticamente gratuitamente, e si è visto che sommando gli straordinari di molti professionisti, questo in alcune aziende è stato fatto un calcolo sistematico come per esempio a Ferrara e in altre aziende, si potrebbero assumere altri dipendenti, altri giovani medici che sono parcheggiati fuori in attesa di contratto vero e non un contratto libero professionale in cui sono perennemente sotto ricatto. Un aspetto interessante della questione, il fatto che l'azienda ospedaliera, come viene chiamata adesso, assomiglia di più appunto ad un'azienda, quindi si bada alla logica del guadagno, dei ricavi e del taglio dei costi. Quanto c'entra la politica nel modo in cui si dovrebbe gestire questa azienda ospedaliera? Quanto è un problema politico piuttosto che davvero un problema di servizio medico, i costi che siano di più o i guadagni che si potrebbero avere? I guadagni si potrebbero avere migliorando e razionalizzando il servizio sanitario, non tagliando semplicemente i costi, non dicendo che la visita deve essere svilita a 10 minuti, perché non è che facendo le visite come i polli in batteria io ottengo una maggiore prestazione, perché si è visto che nel momento in cui i pazienti vengono visitati come i polli in batteria c'è un affollamento maggiore dei pronti soccorsi, dei medici di famiglia e di tutti gli altri servizi, perché se io li guardo male ovviamente passano in cavalleria tutta una serie di istanze che poi vengono riversate su altri professionisti, quindi in realtà la visita non risolve niente. Nel momento in cui io riesco a dare la giusta attenzione, il giusto tempo, la giusta mente libera al paziente, allora io riesco a occuparmi del paziente in toto, e nel momento in cui io risolvo il problema al paziente, il paziente costa di meno al pubblico e quindi a tutti quanti noi. Quindi il taglio dei costi sarebbe... Non vanno tagliati i costi a prescindere, vanno razionalizzati, non è che facendo 3 visite perché le faccio di 10 minuti io faccio pagare di meno l'azienda, ma è razionalizzando le visite. Se io ho un certo tipo di visita, distinguendo tra i controlli e le prime visite per esempio, questo potrebbe essere a livello immediato ambulatoriale, distinguendo tra i veri interventi in urgenza e le famose urgenze programmate, quello potrebbe essere una razionalizzazione, intervenendo in maniera capillare, visto che è demandato alle regioni e alle aziende, ma intervenendo in maniera capillare sulla razionalizzazione dei costi, non semplicemente tagliandoli a pioggia, perché non è regalando a pioggia o tagliando a pioggia che si ottiene un risultato, ma è facendo un discorso capillare e attento. In questo bisognerebbe fare attenzione all'intervento politico, cioè laddove l'intervento sia legato ad una vera attenzione al pubblico e laddove distinguere da dove invece sia legato ad una attenzione al voto del pubblico.